America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, un inverno da dimenticare. Abbiamo l'ennesima tempesta di neve in arrivo a New York, una tempesta di neve che ha già colpito il sud. Devo dire, siamo anche noi un po' preoccupati perché non sappiamo poi come andrà a finire. Per ora sono previsti 30 centimetri di neve qui a New York. Oggi le scuole sono chiuse. A Washington, proprio per il maltempo, è stata cancellata l'audizione di Janet Yellen, governatore della Federal Reserve, davanti al Senato. Vi terremo informati. Intanto voglio tornare su François Hollande, sulla visita negli Stati Uniti, il rapporto storico, emotivo fra americani e francesi, perché è sicuramente un rapporto molto interessante. Intanto Hollande, questo voglio dirlo, ha dato una lezione in fondo a noi italiani, perché è venuto in America ma non è andato a Wall Street a cercare di convincere gli investitori a mettere i soldi nel nostro paese, a spiegare le riforme. Si è tenuto ben distaccato, ha assunto un livello di uomo di Stato, fra virgolette, che non si mischia con queste piccole cose che vengono affidate semmai ai suoi ministri economici, ed è partito per la California, è partito per la Silicon Valley, per la nuova frontiera, cercando di capire qual è il futuro delle sfide tecnologiche, perché è su quello che poi poggeranno gli investimenti competitivi di un paese, il recupero di efficienza, il guardare lontano. Direi che questo è un insegnamento che anche per noi andrà tenuto presente. Ma Hollande, vi ricordo, sempre tornando a differenze fra americani e francesi, era arrivato sull'onda di uno scandalo. Aveva avuto questa relazione con l'attrice Julie Gayet, se ne era parlato, si era cercato di censurarla. Gli americani hanno discusso molto di questo, sono usciti articoli sul New Yorker. Insomma, resta una differenza di atteggiamento, di valori, di modo di pensare fra americani e francesi. E dunque di questo voglio parlare oggi, e ne voglio parlare con un americano a Parigi. Questo era l'americano a Parigi, An American in Paris di Gershwin. Il nostro americano a Parigi è Sandro Stille, professore di giornalismo alla Columbia, scrittore, ha scritto un libro sul padre Ugo Stille, corrispondente storico del Corriere della Sera, scrive sul New Yorker. Buongiorno Sandro. Salve. Eccoci Sandro, beh, tu sei a Parigi da qualche tempo, ci resterai ancora per qualche tempo, sei in una specie di sabbatical o comunque di cambiamento di marcia. Ho deciso di passare un anno a Parigi e mi sono occupato di cose italiane per moltissimi anni e ho deciso di cambiare aria, e quindi è un osservatorio interessante da vedere sia l'Italia che gli Stati Uniti. Ecco, tu hai dato un contributo sul New Yorker, Sandro Stille scrive tra l'altro sul New Yorker, che è uno dei più prestigiosi settimanali culturali americani, provocando un pochino, dicendo beh, una volta essere con un'altra donna, essere francese, ma essere beccati era americano. Forse in questo momento, dopo questo scandalo di Hollande, tu dicevi ma forse le cose cambiano, forse gli americani diventano più francesi, i francesi più americani. Ecco, perché? Spiegaci questa tua tesi. Era semplicemente notare che mentre i francesi sono costretti a diventare più americani nell'accettare un po' la pubblicità della vita personale e la personalizzazione della politica, gli americani allo stesso tempo sono diventati più europei perché hanno dovuto in un certo senso abbandonare un certo moralismo rigido, assolutista. Con Clinton e altri hanno capito che non potevano più continuare a mandare a casa tutti i politici colti in flagrante, perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno per badare il governo, e quindi gli americani sono diventati un po' meno moralisti, i francesi più trasparenti, e quindi vediamoci un po' in mezzo. Come vive la Francia questa visita di Hollande negli Stati Uniti? Cioè, come la seguono? Forse l'aspetto più interessante del viaggio di Hollande è questo viaggio in California, Silicon Valley, perché i francesi sono molto preoccupati dal cambiamento tecnologico, pensano di rischiare di perdere il treno, loro vedono un mondo che cambia radicalmente, ma i grandi colossi del mondo digitale, che sono appunto Google, Amazon, a Facebook, eccetera, sono americani e non francesi. Questo preoccupa molto loro. Ecco, sono preoccupati da questo declino, però in realtà questa visita in America riconosce una grande potenza, perché devo dire un'accoglienza così, beh, non la si vede tutti i giorni. Il fatto di essere nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il fatto di essere una potenza atomica, forse li aiuta ancora i francesi, tanto più che intervengono in Mali, danno appoggio agli Stati Uniti. Pensi che quel coté sia, come dire, importante per l'America? Sì, beh, loro hanno la forza militare più grande fuori, certamente in Europa, e quindi tra gli alleati principali degli Stati Uniti, e quindi in grado di aiutare molto in situazioni come quello della Siria, piuttosto che in Mali, e soprattutto la situazione in Siria ha rinsaldato molti rapporti tra Francia e Stati Uniti. Ecco, dicevo prima, un americano a Parigi, c'è molta leggenda, molta mitologia sugli americani che sono stati a Parigi, da Hemingway a prima ancora scrittori, artisti, e poi più recentemente il Paris Review. Ecco, qual è l'atmosfera degli americani a Parigi oggi? C'è sempre questo fascino di Parigi? C'è un fascino, ma devo dire, per essere sinceri, la Francia non è il grande centro culturale che era nella Belle Époque o negli anni 20-30 qui. Non ci sono grandi metropose, grandi pensatori in Francia che attirano l'attenzione del mondo e quindi anche degli americani. Obama ha parlato poi di investimenti in Francia, ha detto noi dobbiamo incoraggiare gli investimenti avanti e indietro, servono a tutti, e Hollande ha detto beh, noi abbiamo 2000 aziende americane in Francia che danno lavoro a 500.000 persone. Ecco, qual è l'immagine dell'America oggi in Francia? L'immagine dell'America è varia secondo vari punti di vista. L'America ha una grande attrattiva per la Francia, perché anche loro sono molto buttati nel mondo digitale, portano tutti gli iPhone piuttosto che gli iPad, eccetera. D'altra parte preoccupano l'idea di vedersi colonizzati culturalmente dagli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho detto in una delle puntate passate che Jimmy Fallon sostituirà Jay Leno alla conduzione dello storico Tonight Show. Insomma, Jimmy Fallon recupera questo spettacolo notturno, recupera la notte, ha già una serie di ospiti di eccezione convocati per la prima settimana dal 17 di febbraio: Michelle Obama, Will Smith, gli U2, Lady Gaga e Justin Timberlake. E proprio di Justin Timberlake vi propongo Take Back the Night. This was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, Mona. And I've got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.